La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti a un nuovo appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato alla figura del primo presidente della Repubblica Italiana e illustre penalista Enrico De Nicola, a 50 anni dalla scomparsa. Ospite ai nostri microfoni Andrea Ielardi, autore del libro Enrico De Nicola, il presidente galantuomo, edito da Kairos. Negli archivi fotografici dell'immediato dopoguerra compare come uno degli eventi più famosi. Ritrae Enrico De Nicola, capo provvisorio dello Stato, che seduto alla sua scrivania firma il testo della Costituzione italiana, alla presenza di Alcide De Gasperi e Umberto Terracini. La Costituzione era stata approvata il 22 dicembre 1947 con 453 voti a favore e 62 contrari. Cinque giorni dopo, il 27 dicembre, viene promulgata da De Nicola per entrare in vigore il 1 gennaio 1948. La figura di Enrico De Nicola, 50 anni dalla scomparsa, è stata rievocata lo scorso 5 gennaio a Napoli dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e dal Presidente della Camera Gianfranco Fini. Enrico De Nicola, con la sua costante attenzione agli interessi superiori del Paese, può e deve essere indicata come prezioso insegnamento sulla via di un rinnovato senso della coesione nazionale, sulla via di una riaffermata appartenenza di tutti gli italiani alla medesima comunità. Uomo del dialogo, tenace assertore della necessità che nell'immediato dopoguerra si instaurasse un clima di unità nazionale tra tutte le forze politiche, De Nicola guidò, come ha ricordato Napolitano nel suo intervento, una duplice ardua transizione, quella dalla monarchia alla Repubblica e quella dalla nascita della Repubblica alla sua costituzionalizzazione, guadagnandosi così un posto nella storia dell'Italia moderna che resta ancora da valorizzare pienamente. Illustre penalista di area liberale giolittiana, Enrico De Nicola viene eletto per la prima volta deputato nel 1909 nel collegio di Afragola. Dal 26 giugno 1929 al 25 gennaio 1924 assume la carica di presidente della Camera. Durante il ventennio fascista si ritira dall'attività parlamentare per dedicarsi all'esercizio della professione. Alla caduta del fascismo è chiamato a mediare fra gli alleati e la corona per consentire un più agevole passaggio di poteri. Tre settimane dopo le elezioni politiche e il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, si tiene la prima riunione dell'Assemblea Costituente, che il 28 giugno nomina al primo scrutinio, con 396 voti su 501, De Nicola capo provvisorio dello Stato. Incarico che De Nicola assume il 1 gennaio 1948. Il 18 aprile 1948 si tengono le prime elezioni parlamentari della Repubblica. Luigi Einaudi viene eletto nuovo presidente della Repubblica, mentre De Nicola diviene senatore a vita. Nominato giudice della Corte Costituzionale il 3 dicembre 1955 da Giovanni Gronchi, De Nicola ne viene eletto presidente in occasione della prima riunione del collegio il 23 gennaio 1956. Si dimette dalla carica il 26 marzo 1957. Muore il 1 ottobre 1959 a Torre del Greco. Abbiamo in linea Andrea Ielardi, autore del libro Enrico De Nicola, il presidente galantuomo, edito da Kairos. Grazie Ielardi per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Allora, la figura di De Nicola, ha detto il Presidente della Repubblica, è una figura che resta ancora da valorizzare pienamente. E infatti, nonostante si tratti di una personalità di tutto rilievo, in fondo in questi 50 anni non è stata così, diciamo, apprezzata appieno. È d'accordo con questa valutazione del Presidente? Tanto che questa, insomma, è la prima biografia su Enrico De Nicola, la prima biografia completa. C'è stata a Napoli qualche pubblicazione, insomma, degli scritti, dei discorsi, anche qualcuna promossa dal Senato, dal Governo, ma sono sempre stati stracci di discorsi istituzionali, ma sulla vita di questo presidente, insomma, non si sapeva quasi nulla. C'era stata anche una pubblicazione di aneddoti sul Presidente della Repubblica, perché era un personaggio molto aneddotico nella sua vita privata, ma diciamo una vita, una biografia completa che appunto non è analizzasse, diciamo, sia l'aspetto privato che l'aspetto pubblico, non era stata mai pubblicata finora, e quindi abbiamo colto l'occasione anche di questo anniversario per farlo per la prima volta. E cosa ha scoperto nella sua ricerca, appunto, di questo personaggio nel libro che, lo ricordiamo, verrà presentato il 24 febbraio a Napoli nella sede del Denaro? Ma diciamo, scoperte ce ne sono poche, perché è un personaggio qui a Napoli molto molto noto, addirittura molti lo ricordano anche di persona, ancora molte persone lo ricordano, l'hanno conosciuto. Però quello che salta fuori sicuramente è stato il suo ruolo istituzionale, che è stato sempre un ruolo super partes, ma molto più di oggi. Infatti Di Nicola aveva, forse questo è quello che salta più all'occhio, insomma, anche leggendo la sua biografia, aveva quasi cancellato la sua vita privata per dedicarsi allo Stato. Infatti lui non si era mai sposato, non ha mai, diciamo, approfittato, tra virgolette, della sua... delle sue cariche pubbliche. Di Nicola ha ricoperto 4 delle 5 più importanti cariche dello Stato, però tutto questo l'ha fatto sempre al di sopra, diciamo, di quello che era il legame con la sua vita privata, e anzi lo ha fortemente voluto, nel senso, lui era un personaggio molto rigoroso in tutti gli aspetti, addirittura ha anche favorito l'andata in guerra di un suo nipote pur di non raccomandarlo, quindi era una persona assolutamente sana alle raccomandazioni, non solo per gli altri ma anche per se stesso. Sono moltissimi gli aneddoti che ricordano addirittura che lui pagasse di tasca propria i francobolli per la corrispondenza privata, avesse rifiutato le autovetture pubbliche per recarsi da qualche parte se non fosse una visita strettamente ufficiale. Insomma, tutto quello che oggi nella politica, poi dopo di lui, è sicuramente scomparso. Non solo, ma poi rifiutò anche, ad avvalorare questa tesi della sua assoluta discrezione, rifiutò di alloggiare al Quirinale, intendendo, diciamo, proprio questo suo incarico da capo provvisorio come a tempo, quindi anche un altro segnale di rigore e di moralità assoluta nella vita pubblica. Sì, questo sicuramente, anche se molti, questo, diciamo, è un aspetto più privato, lo vogliono legare alla sua superstizione, perché Di Nicola, da buon napoletano, era molto superstizioso, quindi riteneva che il Quirinale portasse sfortuna e quindi preferì alloggiare in altra sede, a Palazzo Giustiniani, perché, insomma, pensava che il Quirinale non fosse un luogo beneaugurante proprio come primo presidente della Repubblica Italiana, e quindi si sacrificò lui stesso per un motivo scaramantico. Questa è un'altra, diciamo, un'altra versione più privata, ma comunque lui, insomma, rifiutò anche gli appannaggi economici, e famoso addirittura il suo cappotto rivoltato, perché durante la guerra c'erano state, come tutti sanno, insomma, situazioni economiche molto precarie, delle quali lui stesso aveva risentito, quindi non solo non si era mai arricchito, ma quando avrebbe potuto farlo, anche per, diciamo, per una questione di decoro istituzionale, preferì appunto sacrificare addirittura il proprio cappotto e farsi rivoltare un vecchio cappotto pur di non comprarne uno nuovo, che avrebbe gravato in qualche modo sul bilancio dello Stato. Uomo del dialogo, dicevamo, Enrico De Nicola, ma anche grande giurista, fa parte anche in qualche modo della tradizione, della grande tradizione della scuola giuridica napoletana, e questo è un altro aspetto importante della figura di De Nicola. Sì, sicuramente, questo è molto legato anche appunto alla Costituzione italiana. De Nicola è stato il garante della Costituzione italiana, ne ha seguito i lavori assiduamente prima di sottoscriverlo ovviamente come capo di Stato, ma è stato un caposcuola giuridico oltre a essere un uomo politico, tant'è vero che alla sua scuola si sono formati poi alcuni dei più grandi giuristi italiani, tra cui due poi sono stati anche personaggi di spicco nella politica come De Martino e Giovanni Leone, sono stati suoi allievi, ma a Napoli, diciamo, qualsiasi grande avvocato di quell'epoca è passato nello studio di De Nicola, che al Corso Umberto, insomma, era diventata una palestra per i giovani avvocati dell'epoca a Napoli. Di quel periodo, degli anni dell'immediato dopoguerra, molto spesso viene rievocato lo spirito costituente, cioè anche formazioni che avevano delle forti contrapposizioni politiche si ritrovarono però unite nel disegnare il quadro del nostro assetto costituzionale. In questo senso il ruolo di De Nicola fu determinante. Sì, fu determinante, anche perché De Nicola fu scelto anche per le sue idee, che tutti sapevano essere bene o male idee monarchiche in un certo senso, perché lui era appunto Napoli è stata una delle maggiori città italiane che nel referendum hanno votato a favore della monarchia, quindi diciamo fu anche scelto per rappresentare in un certo qual modo il sud Italia, che aveva espresso una preferenza per la monarchia piuttosto che per la Repubblica, ma anche in questo lui, diciamo, sacrificò il suo ideale per il bene dello Stato e per incarnare insomma i propositi di conciliazione che erano necessarissimi in quel periodo e che lui più di ogni altro si potevano riassumere, perché in effetti lui aveva conosciuto tutte le fasi politiche italiane più recenti, ma anche quelle storiche. Lui insomma aveva cominciato l'attività politica prima del fascismo, l'aveva attraversato il fascismo sempre dimostrando un equilibrio straordinario, cioè senza schierarsi contro il fascismo e senza prendervi parte, con un rigore e con un equilibrio tale che diciamo non fu neanche possibile perseguirlo, anzi il fascismo lo tenne in altissima considerazione, tant'è vero che a De Nicola fu dedicata una strada col permesso poi di Mussolini e delle autorità fasciste quando lui era ancora in vita, quindi insomma era un personaggio onorato già come un grande protagonista del giuridico e politico italiano quando ancora, insomma, era ancora vivo, quindi un caso unico forse in Italia.